Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Se Samantha credeva ben poco nell'idea del per sempre insieme, credeva invece fermamente nell'idea di un bel cocktail alla fine di una giornata di lavoro. Samantha, un Cosmopolitan e Donald Trump. Può succedere solo a New York. Senti, Ed, devo proprio andare. Sì, Donald. Pensaci, d'accordo? Sì. Mi trovi alle Trump Towers. Va bene. Mi scusi. Sono stato distratto dalla sua bellezza e ho accettato di finanziare il nuovo progetto del signor Trump. Lei mi deve 100 milioni di dollari. Le va bene un assegno? Posso offrirle un drink? Ne ho già uno, grazie. Posso offrirle un'isola? Non lo so, può davvero... Era l'anno 1999. Anche la super fighetta pettinata Samantha non aveva scrupolo nel condividere il suo cocktail con Donald Trump. Allora fece un cameo in Sex and the City e apparve anche lui con il suo parrucchino squadrato con il regolo e stava lì seduto con un altro imprenditore, però pronto a finanziare un grande progetto televisivo in cui sarebbe entrata anche con la ragazza. È passato del tempo e oggi troviamo di fronte alla vertigine di un cambio totale della società. Perché? Perché in fondo viviamo di riflesso di quello che accade negli Stati Uniti, siamo già pronti a cambiare nuovamente le nuove abitudini, oppure siamo già pronti a capire, a prendere contatto con una nuova forma di realtà che abbiamo ignorato, abbiamo finto che non esistesse e pensavamo che appartenesse soltanto a una lontana suburra, invece no, ce l'abbiamo in casa. Guardate questa mattina, dopo le perplessità durante la grande notte della maratona elettorale in cui tutti gli osservatori, i ben pensanti, i paladini del pensiero politicamente corretto facevano delle facce da patibolo, perché in quel momento capivano che il nemico era alle porte, che il contadino Bertoldo si sarebbe pulito le sue scarpe infangate alla corte di Re Alboino. E quindi da questa mattina possiamo celebrare l'inizio della società strampalata. Il termine società strampalata l'ho inventato 5 minuti fa mentre parlavo col collega Gigi Donelli che lanciavo questa trasmissione, mi sembra perfetto. Il termine strampalato sarà l'antitesi più perfetta al politicamente corretto. Quanto il politicamente corretto, era perfetto, era una sorta di sintesi di Nitore nelle sue regole che lasciavano tranquilli e contenti tutti, regole però evidentemente civilissime che abbiamo condiviso e tuttora condividiamo, che consideriamo la punta più avanzata della civilizzazione dell'umanità, ma regole che in realtà ci siamo resi conto che erano soltanto dei vestiti, degli abiti della festa, delle maschere di un grande carnevale. Le maschere sono cadute e oggi siamo tutti strampalati. In cosa voi vi sentite strampalati questa mattina? Potrete mettere le mani sul culo tranquillamente alla vostra collega e dire: oggi siamo strampalati, non ti offendere. Non chiamerete più la presidentessa presidente o il presidente presidentessa, eviterete ogni ricorso a quella sorta di tranquilla capacità di comprendere e far conciliare tutte le differenze, tutte le inesattezze. Tornerete a definire le persone con handicap con quei termini spregevoli di cui Donald Trump si fa naturalmente il più strampalato interprete. Andrete anche voi dall'armaiolo a comprarvi un cannone, una spada, un macete. Prenderete anche voi cemento e mattoni, comincerete da bravi umarelli a costruire un muro per isolarvi al vostro vicinato. Vedete, c'è una sorta di retrogusto, quasi di dispetto in quello che dico, quasi di nostalgia dei tempi passati. No, invece dobbiamo guardare con grande attenzione e con grande entusiasmo, visto che già da questa mattina tutti cominciano a dirsi un po' strampalati. Tutte le persone che prima sembravano molto attente nel dimostrare la loro attenzione alla diversità, la loro attenzione alle emergenze, la loro attenzione alle categorie deboli, la loro attenzione al rispetto nelle parole, nei fatti, nelle azioni, alla tolleranza, oggi sono tutti strampalati. Quanto voi vi sentite strampalati? Noi ci sentiremo come anticipazione della strampalatezza come regola di vita, come condizione e equazione sociale da 3 indicatrici privilegiate. Abbiamo cercato 3 ragazze, 3 amiche che stanno in 3 diverse città degli Stati Uniti e ci daranno da subito il primo segnale della strampalatezza sociale come nuova regola di vita. 800 24 0024. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog. Cronache Meridiane. Inizieremo subito a lavorare per il popolo americano, facendo un lavoro che vi renderà fieri del vostro presidente. È un onore per me, è stata una serata eccezionale, un periodo eccezionale. Adoro questo paese. Grazie, grazie a tutti. Ecco i primi segnali della società strampalata che sta prendendo il sopravvento. Primo messaggio che mi è arrivato: Nicoletti, sporco comunista, comincia a tremare. Ora abbiamo Joe Wayne alla Casa Bianca, rimetterà le cose a posto. Mio figlio Lucio, cittadino americano, starà festeggiando con la famiglia Tucson. Lo spirito del vecchio West dei pionieri, bellissimo, Joe Wayne. Infatti Joe Wayne era il simbolo comunque immarcescibile in America, era il vero motivo di meraviglia di Carlo Verdone quando gli viene detto che probabilmente anche lui fosse omosessuale. Poi, quanto sono felice per tutti quegli intellettuali di merda che lo criticavano, come hanno criticato Reagan al tempo, Roberto, Clinton e anche il coraggio, via dicendo. Nicoletti: ieri è nata una nuova maggioranza politica nel paese di centrodestra. Gandolfini ha ragione, la legge sull'unità civile è vergognosa. Sempre va, questo ce l'ha con unioni civili. Servo, sarei io. Ti sei accorto che Trump ha vinto? Cosa ti ha fatto Trump? Ah sì, forse lo so cosa ti ha fatto, tu sei con i padroni di Confindustria e lui no. Poi un altro mi chiede, si scrive strampalati, cioè scrive come con la grafia di Trump, si strampalato come volete, lo potete scrivere. Strampalato se soltanto tu, Nicoletti, delirante arrotatore di R e di protesi multimediali, ritirati, pateticone. Ecco, la società strampalata sta dando i suoi segnali. Improvvisamente quello che era soltanto inteso come disprezzo subliminale, che avevamo già accennato e sottolineato in questi giorni, in tanti messaggi, oggi finalmente trionfa. La strampalatezza è il nuovo principio. Simone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, piacerissimo di essere con lei. Lei è per la società strampalata, farà anche lei la sua mutazione strampalata o rimarrà comunque quello che è sempre stato finora senza porsi il problema? Io rimarrò assolutamente quello che sono stato finora e telefono più che altro per sottolineare un dato che, non lo so, forse determina anche una sorta di presunzione a noi persone comuni come analisti, ovvero noi diamo la nostra opinione su Donald Trump o Hillary Clinton, è difficilissimo e rimane lontanissimo e incomprensibile quella che è la dimensione degli Stati Uniti. E è un dato definitivo che a quanto pare sentivo stamani mattina è stato sottolineato anche dall'informazione, da come le previsioni siano andate totalmente storte per allora adesso scusi, lei dice quello che stanno già dicendo tutti da questa mattina, che hanno fallito i sondaggisti, che tutte le analisi sono state fatte, sono sbagliate, come hanno sbagliato per la Brexit, hanno sbagliato anche il Presidente degli Stati Uniti. Chi fa sondaggi comunque parte da una posizione di netta antitesi alla strampalatezza. Oggi siamo strampalati. I sondaggisti non esistono più. Lo strampalato non guarda il sondaggio, lo strampalato guarda soltanto il mirino della sua Colt. Lo strampalato annusa l'area, sente la puzza di diverso e quindi non ha bisogno di sondaggi. Dobbiamo essere strampalati. Marina Viola, buongiorno da Boston. Buongiorno, buongiorno. Ferma lì. Giulia Macchia Vercesi, buongiorno da Washington. Buongiorno Gianluca. Le prime due ragazze, la terza la becchiamo tra un po', che abbiamo beccato ancora calde di sonno negli Stati Uniti, che hanno cominciato a vivere anche loro, vivranno tra poco l'alba della strampalatezza. Marina Viola, scrittrice da Boston, la tua prima idea della strampalatezza, te la sentivi già nella pelle, già sentivi nell'aria questo senso di fulgido cambiamento? Assolutamente no, sono scioccata più di quanto pensassi di essere. Io vivo in un paese, Boston, una città dove la maggior parte delle persone sono democratiche e devo ammettere di non aver assolutamente capito il resto degli Stati Uniti e il loro disagio nei confronti di una donna, nei confronti di una persona appunto democratica. Purtroppo ha vinto l'Italia, l'America peggiore, ha vinto l'America razzista, piccolina, omofoba e tutte le cose bruttissime. Bruttissime che ci possono essere in una società, insomma. Sono contenta di non essere musulmana, purtroppo sono bianca, sono donna. E quindi quale sarà il tuo problema? Oggi chiunque sarà in diritto, secondo te, di non avere più quella sorta di rispetto formale che prima sembrava quasi una condizione d'obbligo? Pensi che sia veramente così radicale il cambiamento della società per il fatto che oggi bisogna essere strampalati? No, non lo so, perché ci sono, cioè ormai il political correctness fa parte della cultura americana e non credo che Trump riuscirà più di tanto a cambiare quello. Certo, dimostra che l'America vuole un leader che scacci le minoranze, che non parli più di tanto della disabilità. Io ho un figlio disabile e due figlie femmine, per cui nella nostra famiglia hanno perso tutte e tre. Ma dove stavano, scusami, gli americani politicamente corretti, quelli strafighetti che si occupano di new economy, quelli che vagheggiano mondi paralleli attraverso i social network, quelli che immaginano che si vestono come si vestiva il presidente Obama, quelli che hanno quelle belle famiglie sorridenti, che si abbracciano anche un po' colorate, quindi sono ancora più efficienti, ancora più belle, ancora più multietniche? Dove sono andati? Perché questi non hanno votato, non hanno fatto sentire il loro peso? Perché ha vinto quell'America che a te fa un po' ribrezzo, che oggi già vediamo rappresentata nella nostra equazione italiana nei messaggi che mi stanno arrivando? No, ma chi ha vinto diciamo la campagna verso la città, cioè i sobborghi. Le città sono storicamente democratiche, sono storicamente pro ogni ideale, diciamo, democratico degli Stati Uniti. Purtroppo il resto degli Stati Uniti non vive nelle città, per cui i sobborghi, i piccoli paesini dove sono tutti molto bianchi, sono eterogenei, sono tutti ci sono pochissimi omosessuali, ci sono pochissimi ebrei, ci sono pochissimi musulmani, è quell'America. I Little Boxes di Melvina Reynolds, che avevo come sigla qualche edizione fa, queste casette tutte uguali, tutte le famiglie sono felici, la sera si prendono Martini Dry, hanno i figli che fanno la stessa università e si guardano contenti in questa sorta di box, è tutti uguali e tutti colorati a pastello. Esatto, quell'America ha vinto l'America degli anni 50, per dire, per cui l'America multietnica, l'America multi qualsiasi cosa ha tentato di vincere ma non ce l'ha fatta. Comunque vedo sul New York Times che il 54% di quelli che votavano sono donne, ma il 53% uomini, per cui non è tanto una differenza fondamentale, nel senso che il fatto che lei fosse donna non ha portato la gente a votare più per lei. E vedo anche che la maggior parte delle persone che hanno votato per la Clinton, un po' come la Brexit, sono tutti under 44. Sì, anche questa volta sarà la trasmissione, faremo domani, è l'apoteosi, la celebrazione del pensiero dell'Umarell. L'Umarell che ha determinato la Brexit, l'Umarell è pronto a essere l'unico baluardo contro l'invasione culturale che viene dal mondo islamico. L'Umarell Trump, che poi anche se è miliardario è un Umarell a tutti gli effetti, appassionato di wrestling, ha questa sorta di improbabile pettinatura che però è una sorta di segnale quasi orgoglioso che si porta in testa, e poi ha tutte le declinazioni dell'Umarell, vorrebbe costruire muri, vorrebbe armarsi, vorrebbe difendersi dai cattivi, insomma tutto quello che abbiamo pensato che in nome di una cultura che probabilmente non era così sedimentata ma era soltanto una sorta di apparente artificio di elite intellettuale, oggi va tutto rivisto e ripensato. Infatti guarda, Marina Viola, mi stanno arrivando messaggi che si domandano: sta parlando una donna di sesso femminile o di sesso maschile? Di che sesso sei? Beh, fino a ieri sera femminile, non lo so, adesso a questo punto non sono convinta più neanche io, nel senso che è talmente cambiato tutto, il gioco è cambiato completamente, assolutamente, per cui a questo punto non si capisce più niente. Giulia Macchia Vercesi invece è una giovane imprenditrice, si divide fra Washington e Dubai, però è italiana, italiana fino alla radice dei capelli. Tu stai praticamente a quattro passi dalla Casa Bianca, incontrerai Donald Trump, ti farà degli apprezzamenti salaci e non potrai dire nulla. No, dovrò assolutamente accettare l'apprezzamento, visto che questo sembra essere il leitmotiv della situazione odierna. Trump ha vinto utilizzando appunto quelle che sono forse le parole più demagogiche che si potessero trovare, in realtà senza un grande programma elettorale, ma cercando di incendiare gli animi e le folle di coloro che sono forse gli americani più isolani. Ecco, l'America è comunque un'isola sostanzialmente, quindi le persone che vivono nelle zone rurali, che vivono nelle zone più lontane dalle grandi città, hanno un modo di pensare che è assolutamente diverso da quelli che noi consideriamo gli intellettualmente raffinati, che sono poi i sondaggisti, che sono poi appunto le persone che vediamo nei media, che sono quelli che fanno parte del sistema di Washington. Trump ha vinto contea dopo contea, anche quelle contee con 200-300 voti, lui le ha prese perché comunque è riuscito a toccare delle corde e l'America ha votato di pancia, che la Clinton probabilmente nella sua figura così asettica, così poco empatica, non è riuscita a toccare. Giulia, tu che sei una persona che frequenta, gira il mondo, non hai pregiudizi, sei stata sempre una grande viaggiatrice sin da ragazza, hai lavorato nelle linee aeree, hai fatto l'assistente di volo, sei moglie di un valente pilota, quindi figurati se tu hai dei limiti mentali, ma c'è qualcuna delle tue amiche, delle persone che conosci che ha votato Trump? Alcune persone che conosco sì, inesplicabilmente hanno votato Trump, l'ho visto perché postavano sui social network, qui il voto è segreto, ma diciamo che si tende comunque di più ad aprirsi riguardo a quello che è il candidato favorito. Devo dire che le ho comprese poco, ecco, non me le descrivi, mi fai una tipologia della tua amica, che vota Trump, che penso che in qualche maniera o è all'opposto totale di quello che rappresenti te, una donna ormai cosmopolita, oppure diversa. Sì. Per esempio, guarda, per farti un esempio, c'è una signora che conosco che ha 60 anni, che è un'immigrata italiana, la classica immigrata che poi torna in Italia una volta ogni 20 anni, sposata con l'umarelli turno americano fino nel midollo, e lei per esempio ha votato Trump, era convinta assolutamente che questa fosse la scelta migliore, per cui è tanto lontana da quello che può essere una persona come me, è lontanissima da quello che possono essere le persone che trovi nelle grandi città, per cui questo è il genere. Per farti solo un altro esempio, io un mese fa ero in Pennsylvania e parlo della Pennsylvania più rurale, quella con gli Amish addirittura, e non ho visto mai come in quel posto tanti cartelli che inneggiavano a Trump. Quindi tu prima hai parlato del contadino Bertoldo, ecco, Trump ha vinto con tanti contadini Bertoldo che uno dopo l'altro si sono messi in fila e sono andati a votare, e tutto sommato forse gli intellettualmente raffinati elettori della Clinton o non sono andati a votare oppure hanno considerato dei stati già presi, cosa che non è stata, quindi tutto sommato hanno peccato di orgoglio, hanno peccato di presunzione. Pensano di vivere di una sorta di rendita ormai acquisita a vita, una sorta di diritto eterno di rappresentare un'elite intellettuale, anche un'elite di potere, essere dei maître à penser per tutto il resto del mondo, ma il resto del mondo silenziosamente, piano piano, con i loro impermeabilini, con le loro grosse scarpe, con le loro calze contenitive, con i loro cinti ernari, sono andati a votare, mentre questi giocavano con lo smartphone, mentre questi si producevano inarditi tweet nel commentare la vicenda, gli altri andavano a votare. Fermi un attimo, ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Melog, cronache meridiane. 2005, prima di un'intervista in televisione, il miliardario, parlando a ruota libera, si vanta delle facili conquiste. Le sono saltato addosso, dice, ci ho provato e riprovato. Era sposata, conclude Trump. In un altro passaggio ammette di essere attratto dalle belle donne, di provare subito a baciarle, sono come delle calamite, dice, poi aggiunge, quando sei un VIP puoi permetterti di tutto, assolutamente di tutto. Dal suo sito ufficiale Donald Trump ha bozzato delle scuse sostenendo che... Adesso non vorrei soffermarmi più di tanto e porgere sempre il fianco a questo fatto che Donald Trump sia un irrispettoso delle donne. Ho sentito racconti di prima mano di esseri immondi e viscidi che zompano indosso alle loro studentesse, come protagonisti hanno i più illuminati professori che hanno animato il 68 italiano, che hanno animato tutte le riviste di opinione più eccelse, che hanno portato le loro giacchette di tweed con le pezze ai gomiti nei più raffinati salotti televisivi a parlare dei loro incomprensibili libri. L'uomo è sempre stato lercio, cialtrone, sempre approfittato le donne quando aveva una posizione di potere. Questo non è rappresentativo soltanto di Trump, solo che Trump lo dice, schifosamente lo dice, lo ammette, ne fa la sua bandiera. I messaggi del popolo strampalato naturalmente ce l'hanno con me, vorrebbero la mia testa, siamo proprio ormai asserragliati alla corte dell'ultimo re a cui hanno tagliato la testa, sentiamo già sotto il furore del popolo con i forconi e le fiaccole che ci vuole naturalmente fare a pezzi. Nicoletti è impazzito per la sconfitta, ma sconfitta di che? Ma pensate che io mi fossi sentito rappresentato in qualche maniera dalla Clinton, ma manco il, che ne so, il test della prostata abbiamo in comune, nulla ho a che fare con la Clinton. Osservo con divertimento questa sorta di improvviso orgoglio della società strampalata che si sente finalmente rappresentata, come se al domani cambiasse tutto anche nella nostra società e chiunque si possa sentire finalmente in diritto di dire quello che pensa, di dirgliela tutta. Guardate che le conquiste di cui parlava prima Marina Viola, che mi sta dicendo hai scelto una radical chic, una comunista, via dicendo, sono conquiste reali, effettive, la tolleranza e la comprensione per le persone con difficoltà è una vera conquista dell'umanità, non è soltanto una sorta di belletto che si mettono le signore della alta società quando si scambiano i regalini di Natale nelle loro terrazze, è qualcosa che veramente per cui ha valso la pena di darsi da fare un po' per i diritti degli altri in questi ultimi anni. Non confondiamo quello che è una ridicola, altezzosa e finta condizione di rappresentarsi una certa elite intellettuale con quelli che sono i veri valori della conquista. La tolleranza è un vero valore. Noi non siamo umanamente portati alla tolleranza, ci siamo conquistati la tolleranza. Enzo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Intanto non sa perché non voglio la sua testa, quindi per me andrà bene. Ma se ne farebbe poco, che ci fa? Gioca a pallone. Ma infatti mi fa anche sorridere chi la vorrebbe, cioè non hanno nient'altro di cui occuparsi che richiedere la testa di Nicoletti. Però sarebbe bello finire la propria carriera in gloria come martire delle folle urlanti. Sì, diciamo che varrebbe la pena. Anche quella è una soddisfazione. Ad ogni modo, io chiamavo perché 24 ore fa circa mi è nata la seconda bambina. Ah, in bocca al lupo. Crepi, è nata Elena. E qualche giorno fa al pancione della mia compagna dicevo: Elena, non fare scherzi, non fare perché ci nasci proprio il giorno in cui in America vince Trump. E invece è successo. È nata il giorno in cui gli americani votavano, effettivamente, l'abbiamo scoperto stamattina. Ecco, lei è nata... Questo secondo lei cos'è? Una sorta di auspicio? Avrà una figlia strampalata? Gli farà rutti in faccia anche a 20 anni e gli dirà: non lo so cosa potrebbe fare, o se no la figlia strampalata, anzi, sarà un'ottima ragazza, camminerà a occhi bassi, avrà le gonne sempre sotto al ginocchio, chiederà al papà: presentami un bravo ragazzo, me lo voglio sposare. Forse farà questo, non lo so. Non lo so, e per ora non me ne preoccupo, nel senso, non me... crescerà, avrà la sua personalità, la sua identità e sarà, spero, bellissima come è adesso. Che ha 24. Ma diciamo, quando sua figlia entrerà nella scuola dell'obbligo, finirà l'asilo, probabilmente ci sarà già Michelle Obama presidente degli Stati Uniti, e quindi forse saremo tutti assolti di questa sorta di favoloso, frizzante e periglioso periodo della strampalatezza. Monica Mascia, London, da New York, buongiorno. Buongiorno. O anzi, buona mattina per te, buonanotte, non so cosa sia. Allora, Monica Mascia London è una giornalista, si occupa di design, di arte e scrive per la rivista Hardcore Italia. Mi spieghi anche te esattamente perché tutti continuiamo a definire Trump un contadino, visto che è un newyorkese come te? Che c'ha di contadino? Nulla, sempre vissuto nei lussi e nelle agiatezze, si faceva il bagnetto con il latte di vergine, quando mai è stato contadino Trump? Trump rappresenta tutti gli ideali di un'America che per gente come noi che viviamo nelle città magari più, diciamo, forse più colte, più avanzate, consideriamo tutti che sono tutti degli ideali sbagliati. Con Trump vince l'America del razzismo, del divisionismo, del narcisismo, l'America che rappresenta soltanto una fascia della popolazione, che sono i bianchi, e l'America dell'ostilità e del bullismo. Poi è vero che l'hanno votato anche molti latinos, nonostante fossero le persone più tartassate, diciamo, dalla sua campagna. Sì, ha ricevuto, veramente è stato incredibile la quantità di voti che ha ricevuto. Diciamo, i voti, la notizia che è stata anche, diciamo, più grande anche rispetto agli ultimi anni è che hanno votato anche il 70% delle persone che non sono non educate, quindi senza una... Vabbè, questo però, scusami, è quello che, di cui oggi sono più accusato questa mattina. Sei razzista, sei discriminatorio, pensi che soltanto le persone color e moscia possano avere diritto di espressione di voto. Però tu mi dici, come osservatore anche, diciamo, dei fenomeni artistici, del pulsare di quella sorta di creatività che poi arriva sempre anche alle nostre latitudini, magari con un anno di distanza. Ecco, come cambierà la società americana, quella società che tu frequenti? Le signore fino ad oggi si identificavano magari nel modello della famiglia Obama, faranno fatica ad entrare anche loro nella logica del parrucchino scolpito e incollato con la colla ogni mattina? Sì, ci sarà una grande fatica. Ma dovrete farlo per forza, dovranno farlo per forza. Se dovranno avere interlocutori, no? Sarà dura ad accettare. Io sento anche molti commenti, no, nel mio, quello che può essere il mio circolo, gli amici, la famiglia. È una decisione molto dura, la gente è molto affranta, perché veramente si ha paura delle conseguenze che possono essere molto gravi per questo paese. Quindi però possiamo un attimo, Monica, dividere fra le conseguenze sul piano della macroeconomia, della politica internazionale. Non è compito in questo momento di analizzarlo in questa trasmissione. Voglio sapere, nella società, questo cambiamento, la società poi si adegua ai modelli, la società si adatta, perché poi alla fine devi fare i conti con le istituzioni, con le amministrazioni, con gli enti pubblici, devi chiedere favori, devi muoverti, devi comunque avere delle facilitazioni. Quindi lentamente cambierai anche il tuo modo di essere. La società che tu conosci, conoscendo sia quella italiana che quella americana, che ormai era così orientata verso un modello almeno esteriore di tolleranza, di capacità di comprensione, di apertura agli altri, come cambierà? Ci sarà un visibile cambiamento? Cambierà forse nel modo in cui... Beh, è una domanda difficile, perché me lo sto chiedendo anch'io, ce lo chiediamo tutti e abbiamo tutti un po' paura anche di abituarci al cambiamento, nel senso che amiamo tutti l'America della democrazia, l'America dell'uguaglianza, l'America della pace, del rispetto. Quando vediamo questi valori crollare, è veramente una situazione difficile, perché non riusciamo ad immedesimarci più in questa cultura, in questa società. E seriamente le persone che mi sono attorno, gli amici, sono tutti affranti, chi pensa addirittura di lasciare il paese o di... non lo so, è veramente un cambiamento che sarà difficile per molti. Allora, cambierà? Non ho una risposta. Allora, fermati un attimo, Masha, che devo dare la linea. Fra pochi istanti risentirò tutte e tre le nostre ragazze che daranno testimonianza al loro modo d'essere. Non ve la prendete con loro, non ci sarà una sorta di transumanza dei politicamente corretti, non andranno in un'isola, non si cospargeranno il capo di cenere. Chi credeva nei valori, chi pensava che i valori siano stati una conquista, continuerà a essere testimone dei propri valori. Chi avrà una capacità velocissima di adattamento, vedrete, cambieranno improvvisamente. Le persone più esteriormente abbracciavano un concetto di contemporaneità aperta e illuminata, cambieranno esattamente. Domani andranno tutti a tingersi i capelli, domani rutteranno tutti per strada, domani tutti metteranno la mano sul culo alla loro vicina di casa, perché si sentiranno improvvisamente dalla parte del giusto. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, quello della società strampalata, devo dire, è stato un test fantastico questa mattina. Non ho mai sollevato tanto odio. Non fare il bigotto. tutto, mass media corrotti, quanta arroganza, quanta puzza sotto il naso. Nicoletti, siete prevenuti, siete brutti modelli di persona, vi state arrampicando sugli specchi, vetero comunisti, oh, vi giuro. Per i primi 30 anni della mia vita mi sono sentito dare del fascista, delle cose peggiori, capito? Non sapevo di arrivare alla maturità essendo chiamato vetero comunista addirittura. Nicoletti, che poveri ospiti questa mattina, Nicoletti invidioso, italiani ignoranti, Nicoletti, come se in questo momento fossi una sorta di sconfitto. Stessi lì col mio grembiulino azzurro a piangere in un angolo, ma non è così, non è così. Matteo, buongiorno, velocemente. Pronto? Sì. Salve Nicoletti. Ma no, mi è venuto in mente col discorso di stamattina una puntata di South Park di qualche anno fa, dopo l'elezione di Obama. E in effetti è successo esattamente la stessa cosa che sta accadendo oggi. Quindi l'aspettativa sulla rivoluzione totale e le fustigazioni di chi stava dall'altra parte, che si aspettava una società in cui il multiculturalismo avrebbe distrutto tutti i valori della società tradizionale. Insomma. Sa Matteo, io mi ricordo esattamente che trasmissioni fece all'indomani dell'elezione di Obama. Ero già a questi microfoni, perché ormai ci sto da 10 anni, raccontai di essere passato dal mio parrucchiere, che era un parrucchiere naturalmente unisex, c'era una signora che una mano era infilata dentro la piletta della manicure, e in testa aveva il casco, l'altra mano stava cosparsa di creme, e diceva a una sua amica, urlando nel suo smartphone: ma che bello, oggi è la giornata più bella della mia vita, perché hanno eletto Obama. Per lei improvvisamente quella era la giornata più bella della sua vita, e sarà la giornata più bella della vita della signora che, uscendo magari da questo portone, mi tirerà in faccia il secchio della spazzatura, perché sono improvvisamente l'antitesi del mondo strampalato. Marina Viola, ricordo, da Boston, sei la più denigrata dai nostri ascoltatori, in quanto tu rappresenti esattamente, secondo loro, quel modello di persona radical chic che in questo momento si trova delusa. Spieghi un po' la differenza, se ci riusciamo a fargli capire, fra un radical chic d'esteriore e una persona sinceramente appassionata dei propri valori. Io a me non mi interessa. Poi ti conosco, se all'apparenza sembri molto più contadina te e qualsiasi appunto, signora che mi sta scrivendo in questo momento. Non mi interessa, cioè, ognuno è libero di avere le proprie idee, per l'amor del cielo, però io purtroppo qua ci vivo, cioè io vivo negli Stati Uniti, cresco dei figli negli Stati Uniti, e pensavo che gli Stati Uniti, forse sottovalutando il fatto che gli Stati Uniti fossero pronti per una donna, fossero pronti per un cambiamento, come lo era stato appunto Obama 4-8 anni fa. Ecco, ma sei sicura, Marina, che fosse quella proprio la donna più rappresentativa dell'ideale di donna democratica? Non sarà stato anche lì una sottovalutazione, o sotto mano non c'era niente di meglio, hanno messo la Clinton sul piatto? No, secondo me il fatto è che qui si vota l'immagine e non si vota il contenuto, perché Hillary Clinton in realtà dal punto di vista dell'immagine non è niente di eccezionale, non è per niente carismatica, non è una bella donna, non è giovane, non è sexy, e però ha dei contenuti profondi, ha una conoscenza di Washington e comunque degli Stati Uniti assolutamente eccezionale, però di fronte alle telecamere non fa lo stesso effetto di quanto faceva Obama, bello, alto, intelligente, simpatico, o Trump, che ma diciamo che era l'esempio del briatore italiano. Trump, in realtà. Beh, infatti fa lo stesso programma in televisione. Il briatore ha fatto in TV il programma che faceva Trump: riconoscere giovani talenti, licenziarli o promuoverli. Ma mi sa che mi dicono la stessa cosa però anche di Trump. Mi dicono sì, sarà quello che sarà, però guardate, perché nessuno va a vedere esattamente cosa dice lui in termini di economia e in termini di modelli sociali. Alla fine dice delle cose molto più esatte, molto più avanzate, quelle che dice da Clinton. Sai, è differente, è difficile fare delle differenze fra questo. Trump in realtà secondo me è assolutamente più scioccato di tutti noi, cioè lui secondo me non ha iniziato questa campagna elettorale sapendo, cioè non pensando assolutamente di vincere questa elezione, non è, lui è il primo secondo me a ammettere a se stesso di non essere assolutamente in grado di portare avanti gli Stati Uniti, cioè non stiamo parlando di un paese piccolo, stiamo parlando di un paese che comunque in qualche modo ha potere sull'Europa, su tutto il mondo. Ecco, lui non è assolutamente in grado di farlo. Il problema è che il vicepresidente degli Stati Uniti di adesso, Pence, è ancora peggio di Trump, con la differenza che è un politico vero, per cui sa anche come farla la differenza. Io a me mi posso chiamare radical chic quanto vogliono, vengano qui loro e facciano loro quello che vorrei fare io. Cioè, fermali, devo far chiudere a Giulia Macchia Vercesi da Washington. Solo una battuta: tu come imprenditrice temi che accadrà qualcosa di disastroso con l'avvento Trump? No, assolutamente, onestamente io non penso che comunque sarà una tragedia. Già dalla prima discorso presidenziale lui che si è iniziato ad adattarsi al sistema parlando in maniera estremamente corretta, politicamente corretta, quindi ci siamo tutti stupiti di vedere un Trump così morigerato. Quindi sono certa che comunque intanto ci divertiremo, perché sicuramente sarà un presidente che farà scrivere molto e farà parlare molto. Va bene Giulia, vi lascio perché la sigla ci porta via, non volevo interromperti. Avremo delle sorprese, le analizzeremo con cura, soprattutto nella loro ricaduta nella nostra società, quella che conosciamo meglio e vediamo ogni giorno. A domani.